Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Galbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Introduzione di Renato Nisticò. La vita di Jane Austen, l'autrice di Emma, il romanzo che iniziamo a leggere questa mattina, copre un arco storico che siamo soliti individuare con l'avvento della rivoluzione industriale. Era infatti nata in Inghilterra, nello Hampshire, nel 1775 e morì a Winchester nel 1817. Tuttavia, nei suoi romanzi non compare la dura esistenza delle masse operaie, dei braccianti inurbati che saranno poi oggetto di una successiva tradizione romanzesca, ma l'altra faccia della crescita economica di quel periodo che riguardava le classi sociali che di quell'arricchimento godevano, la borghesia, o meglio, la piccola e media classe proprietaria inglese di provincia. Attorno a quello che accadeva a questa classe descritta dalla Austen e il silenzio nei suoi romanzi, ella è molto abile nel descrivere i suoi ambienti, coi suoi riti immarcescibili, i pranzi, i balli, le conversazioni, che sono attraversati tuttavia da fremiti di un non tanto sotterraneo conflitto sociale con l'aristocrazia inglese di tradizione. Le eroine dell'Austen hanno la propensione a seguire gli azzardi del cuore, sono pronte a sfidare le convenzioni sociali e le allora rigidissime barriere di classe, per cui un ricco commerciante, come ascolteremo, era dichiaratamente inferiore a un qualsiasi aristocratico. Ciò comportava non pochi problemi nell'ingegneria, nell'alchimia matrimoniale, che è la componente architettonica, direi strutturale, della narrativa della Austen. Più che l'amore e passione nella Austen, conta il complesso delle virtù degli individui e le loro reciproche compatibilità. I valori che muovono le eroine della Austen sono quelli di una sorta di ideale pragmatismo, se mi ha consentito l'ossimoro, cioè lo slancio emotivo è illuminato in loro dal buon senso, dalla ragione, come facile intuire considerato che l'illuminismo era all'epoca ancora culturalmente egemone. Questo finale buonsenso è tuttavia raggiunto attraverso l'esperienza vorticosa dei moti dell'anima e del cuore che agitano le complesse, anche tormentate, psicologie femminili e di sguincio però anche quelle maschili, che valgono in quanto satelliti e sponde funzionali di quelli femminili. La narrativa della Austen è attraversata da una immanente ironia, che è il precipitato di una risorsa personale della scrittrice. La tranquilla biografia della Austen, perché la Austen non si sposò e si ridusse ad accudire i tanti suoi nipoti per tutta la vita, questa ritirata vita, dicevo, privata dell'Austen, ma sempre curiosa di quella degli altri, consentì quel distacco dal mondo di cui l'ironia è la versione, diciamo, insieme filosofica e letteraria. Sentimentale, ecco, diremo, insomma, l'Austen, ma con giudizio. Al riparo da questo slogan possiamo rapporci all'ascolto della lettura di Emma, su cui caratteri particolari ritorneremo più in là in coda alle letture, non senza però aver notato che lo straordinario successo cinematografico della Austen, come sapete negli ultimi anni sono stati ridotti per il cinema molti dei suoi romanzi e qualche volta anche in duplice versione. Questo successo, dicevo, è indice del fatto che la classe media è probabilmente tornata ad essere il baricentro della vita sociale. E la Holsten è una delle statue del Museo della Tradizione che più spesso si rianimano e riprendono a muoversi fra di noi. Ora vi lascio alla lettura di Elsa Agalbato e vi auguro buon ascolto. Bella, intelligente, ricca, con una casa fatta per viverci bene e un'indole felice, Emma Woodhouse sembrava riunire alcuni dei beni più preziosi della vita e in realtà era vissuta quasi 21 anni nel mondo al riparo da grosse noie o fastidi. Era la minore di due figlie ed un padre pieno d'affetto e di indulgenza e in seguito al matrimonio della sorella da molti anni ne reggeva la casa. Sua madre era morta da troppo tempo perché le restasse più che un ricordo confuso delle sue carezze e ne aveva fatto le veci un'ottima donna assunta come governante, ma che in affetto le era stata quasi madre. 16 anni Miss Taylor era vissuta in casa Woodhouse, meno governante che amica, affezionatissima alle due ragazze, ma specialmente a Emma. C'era fra loro due qualcosa dell'intimità fra sorelle. Anche prima di lasciare le mansioni ufficiali di governante, la mitezza del suo carattere le aveva vietato di imporre una rigida disciplina. E scomparsa da tempo anche l'ombra dell'autorità, erano vissute insieme come amiche devote. Ed Emma faceva quel che voleva, altamente apprezzando il giudizio di Miss Taylor, ma lasciandosi prevalentemente guidare dal proprio. In realtà, il guaio vero della situazione di Emma erano la possibilità di fare un po' troppo a modo suo e una certa tendenza a pensare un po' troppo bene di se stessa. Due svantaggi che minacciavano ormai di turbare i suoi molti diletti, ma che il pericolo, essendo ancora inavvertito, non avevano peraltro assunto l'aspetto di malanni. Un dispiacere venne, mite dispiacere, ma non sotto forma di sensazione sgradevole. Miss Taylor prese marito. Fu la perdita di Miss Taylor a portarle il primo dolore e fu il giorno delle nozze della diletta amica che, per la prima volta, Emma sedette a lungo, immersa in pensieri cupi. Compiuta la cerimonia e partiti gli sposi, suo padre e lei rimasero a cena soli, senza la prospettiva di un terzo a rallegrare la lunga serata. Dopo cena, come al solito, il padre si appisolò e a lei non rimase che sedersi a meditare su quanto aveva perduto. L'avvenimento racchiudeva ogni promessa di bene per l'amica. Il signor Weston era un uomo di carattere irreprensibile, facoltoso, dell'età giusta e dai modi piacenti. E v'era una punta di soddisfazione nel riandare con quanto disinteresse, con che generosa amicizia ella avesse sempre desiderato e favorito quell'unione. Tuttavia, fu un giorno nero per lei. La mancanza di Miss Taylor si sarebbe fatta sentire ogni ora di ogni giorno. Era un cambiamento malinconico, ed Emma non poteva che sospirarci sopra e desiderare cose impossibili, finché il padre si svegliò e fu necessario mostrarsi di buon umore. Il suo stato d'animo chiedeva sostegno. Era un uomo nervoso, facile ad abbattersi, attaccato a tutte le persone alle quali era avvezzo e restio a separarsene, restio a qualunque cambiamento. Il matrimonio come fonte di cambiamento era sempre spiacevole ed egli non si era ancora adattato al matrimonio della figlia, né poteva mai parlarne senza una punta di compassione, sebbene fosse stato un perfetto matrimonio d'amore, che già doveva separarsi anche da Miss Taylor. E dalle sue abitudini di dolce egoismo, dall'incapacità di supporre che altri potesse mai provare sentimenti diversi dai suoi, era fortemente portato a ritenere che Miss Taylor avesse fatto una triste cosa per sé, non meno che per loro. E sarebbe stata mille volte più felice se avesse trascorso ad Hartfield tutto il resto della vita. Emma, per distrarlo da quei pensieri, sorrideva e chiacchierava con la maggior spigliatezza possibile. Ma al tè il padre non poté trattenersi dal dire esattamente quello che aveva detto a tavola. «Povera Miss Taylor, vorrei fossi ancora qui. Un gran peccato che il signor Weston se ne sia invaghito». Il signor Knightley, uomo posato sui 37 o 38 anni, non era soltanto un vecchissimo e intimo amico di famiglia, ma le era particolarmente legato come fratello maggiore del marito di Isabella. Abitava a circa un miglio da Highbury, veniva spesso a trovarli ed era sempre bene accetto, tanto più ora che arrivava fresco fresco dai comuni parenti di Londra. Era tornato a cena tardi dopo qualche giorno di assenza e veniva a dire che in Bruswick Square stavano tutti bene. «A proposito, non vi ho fatto i miei rallegramenti? Rendendomi conto del genere di allegria che dovete provare tutti e due, non ci ho messo nessuna fretta. Ma spero che tutto sia andato bene. Come ve la siete sbrigata? Chi ha pianto di più?» «Oh, povera Miss Taylor, è ben triste. Poveri signori Woodhouse, se vi garba, ma povera Miss Taylor non direi davvero. Ho la massima considerazione per lei e per Emma, ma quando si arriva al problema d'essere o no indipendenti, comunque è meglio doverne accontentare uno che due. Soprattutto quando uno dei due è una creatura così capricciosa e difficile», disse Emma celiando. «È questo che lei ha in mente, lo so. E l'avrebbe detto, non ne dubito, se non ci fosse stato mio padre». «Credo sia proprio vero, cara mia. Temo d'essere molto capriccioso e difficile qualche volta», disse con un sospiro il signor Woodhouse. «Papà carissimo, non penserai che volessi alludere a te? O che a te potesse alludere il signor Knightley? Oh no, pensavo unicamente a me stessa. Il signor Knightley si diverte a trovar da ridire sul mio conto, così per scherzo, solo per scherzo, capisci? Siamo abituati noi a dirci tutto quello che ci passa per la testa». In realtà, il signor Knightley era uno dei pochi che riuscissero a trovare dei difetti in Emma Woodhouse e il solo che mai gliene parlasse. Ed Emma, sebbene ciò non andasse particolarmente a genio neppure a lei, sapeva che ancor meno sarebbe andato a genio al padre e non desiderava lasciargli nemmeno intravedere il fatto inaudito che qualcuno potesse non trovarla perfetta. «Beh», fece Emma ansiosa di cambiare argomento, «voleva sapere delle nozze? E io sarò felice di parlarne, perché ci siamo comportati tutti a meraviglia. Tutti puntuali, tutti della miglior cera. Non una lacrima, non un muso lungo. Oh no, sentivamo tutti che appena mezzo miglio ci avrebbe separati. Ed eravamo certi che ci saremmo visti ogni giorno». «La cara Emma sopporta così bene ogni cosa», disse il padre. «Ma, signor Knightley, è davvero molto addolorata di perdere la povera Miss Taylor e sono sicuro che le mancherà più di quanto lei non pensi». Emma girò la testa, divisa fra lacrime e sorrisi. «È impossibile che Emma non senta la mancanza di una compagnia simile», disse il signor Knightley. «Non le vorremmo il bene che le vogliamo, signore, se potessimo supporlo. Ma lei sa quanti vantaggi abbia per Miss Taylor il matrimonio? Sa che sollievo debba essere all'età di Miss Taylor sistemarsi in casa propria e quanto sia importante per lei la sicurezza di una vita tranquilla. Non può quindi permettersi di provare più pena che piacere. Chiunque è amico di Miss Taylor deve rallegrarsi che si sia accasata così felicemente». «Ha dimenticato un motivo di gioia per me», disse Emma, «e non da poco. Che il matrimonio sono stata io a combinarlo. L'ho combinato io, infatti, 4 anni or sono. E vederlo compiersi e sentirmi dar ragione quando tanti sostenevano che mai il signor Weston si sarebbe risposato può ben consolarmi di tutto». Il signor Knightley scrollò la testa. Il padre di Emma rispose teneramente: «Oh, cara mia, vorrei che tu non combinassi matrimoni né leggessi l'avvenire, perché tutto quel che dici finisce prima o poi per accadere. Non combinarne altri, te ne prego». «Ti prometto di non combinarne per me, papà, ma per altri bisogna pur che lo faccia. È il più gran divertimento di questo mondo. Dopo un successo simile, poi, tutti dicevano che Mr. Weston non si sarebbe mai più risposato. A modo suo, il signor Woodhouse amava la vita di società. Gradiva molto che gli amici venissero a trovarlo e, per il concorso di circostanze diverse, la lunga permanenza ad Hartfield, la sua cordialità, il patrimonio, la casa e la figlia, poteva in larga misura disporre a piacere delle visite di una piccola cerchia di eletti. Al di fuori di questa cerchia, i suoi rapporti con altre famiglie erano ben pochi. Il suo orrore per le lunghe veglie e le grosse tavolate gli impediva di coltivare rapporti con chi non fosse disposto a lasciarsene dettare le leggi. Fortunatamente per lui, di persone di questo genere, Highbury, inclusi Randalls nella stessa parrocchia e Dunwell Abbey, residenza del signor Knightley, nella parrocchia vicina, ne contava molte. Non di rado si lasciava persuadere da Emma a invitare a pranzo alcuni degli eletti e dei migliori, ma quelle che preferiva erano le riunioni serali e, a meno che non si immaginasse all'altezza della situazione, non v'era quasi sera della settimana in cui Emma non riuscisse a imbastirgli una partita a carte. Un vero e ormai tradizionale riguardo conduceva gli Weston e il signor Knightley, e da parte del reverendo Elton, un giovane che viveva tutto solo senza provarci nessun gusto, il privilegio di scambiare una qualunque sera vuota della sua grigia solitudine contro le eleganze e la società del salotto del signor Woodhouse e i sorrisi di sua figlia, non correva certo il rischio di lasciarsi buttar via. Seguiva un secondo gruppo di persone, di cui erano le più disponibili la signora e la signorina Bates e la signora Goddard. Tre gentildonne quasi sempre agli ordini di un invito proveniente da Hartfield e che così spesso erano mandate a prendere e riportate a casa che il signor Woodhouse non lo riteneva fatica eccessiva né per James né per i cavalli, mentre se la cosa fosse avvenuta solo una volta all'anno, quello sì che sarebbe stato un fastidio. Erano queste le signore che Emma riusciva molto spesso a convocare, e di questo suo potere era felice per amore del babbo, sebbene quanto a lei non colmassero il vuoto lasciato dall'assenza della signora Weston. Era lieta di vedere sereno e contento il padre, e si compiaceva di saper sistemare così bene le faccende, ma le tranquille litanie delle tre donne le davano la sensazione acuta che ogni sera così trascorsa era proprio di quelle che tanto aveva paventato. Un mattino, che se ne stava seduta a meditare che appunto così si sarebbe concluso quel giorno, le fu portato un biglietto in cui la signora Goddard le chiedeva, nei termini più rispettosi, il permesso di condurre anche Mrs. Smith. Richiesta benvenuta, perché la signorina Smith era una ragazza diciassettenne che Emma conosceva bene di vista e per la quale provava da tempo interesse a causa della sua leggiadria. Un cortesissimo invito fu diramato e la sera non fu più attesa con sgomento dalla bella padrona di casa. Harriet Smith era la figlia naturale di qualcuno. Qualcuno, 7 anni prima, l'aveva messa alla scuola di Mrs. Goddard. E qualcuno l'aveva di recente innalzata dalla condizione di alunna a quella di convittrice. Tanto si sapeva in genere della sua storia. Non aveva amici, che si sapesse, oltre quelli fattisi ad Highbury, e tornava giusto allora da un lungo soggiorno in campagna presso certe signorine che erano state a scuola con lei. Era una bellissima ragazza, la bellezza proprio del tipo che Emma particolarmente ammirava. Piccola, paffutella e bionda, con un colorito splendido, occhi azzurri, capelli chiari, tratti regolari e un'aria di grande dolcezza. E prima che la serata finisse, Emma era entusiasta dei suoi modi non meno che della sua persona e ben decisa a mantenere i rapporti così iniziati con lei. Non che nella conversazione di Miss Smith la colpisse nulla di particolarmente originale, ma la trovò in complesso affascinante. Né esageratamente timida, né restia a conversare, e tuttavia così aliena dal farsi avanti, animata da una così schietta e delicata deferenza, così evidentemente e simpaticamente grata d'essere ammessa ad Hartfield e così francamente ammirata di tutto ciò che le si rivelava attorno e che aveva uno stile tanto superiore a quello al quale era abituata, che doveva proprio essere una ragazza giudiziosa e meritare incoraggiamento. E l'avrebbe avuto. Quei miti occhi azzurri, tutte quelle grazie naturali, non andavano sprecati nella banale società di Highbury e nelle sue relazioni. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.